Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Prima favola della tredicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. La signora pregò il signor ambasciatore che al favoleggiare desse principio, ed egli, che non era villano, così a dire incominciò. Favola prima. Maestro Gasparino medico con la sua virtù sanava i pazzi. Grave è il carico che mi ha dato la signora in raccontar favole, perciò che è piuttosto ufficio di donna che di uomo. Ma poscia che così è il desiderio suo e di questa orrevole e degna compagnia, sforcerommi, se non in tutto, almeno in qualche particella soddisfare all'intento vostro. Trovavasi in Inghilterra un padre di famiglia molto ricco e aveva un solo figliuolo, nomato Gasparino. Lo mandò in studio a Padova, a ciò che desse opere alle lettere, ma egli, poco curandosi di lettere, nonché di sopravanzare gli altri studenti di dottrina, tutto il studio aveva posto in giuocare alle carte e altri giuochi, praticando con certi suoi compagni dissoluti e dediti alle lascivie e mondani piaceri, onde consumò il tempo indarno e i denari, che dovendo studiare in medicina e le opere di Galeno, egli studiava la bocolica e le cartelle da giocare e di darsi piacere in tutte quelle cose che gli dilettavano. E passati 5 anni ritornò alla patria e mostrò per esperienza aver imparato all'indietro, perché, volendo egli parer romano, era riputato da tutti barbaro e caldeo ed era conosciuto da tutta la città e mostravasi adito dagli uomini, di modo che di lui tutti favoleggiavano. Quanto dolore fusse al misero padre, lascialo considerare a voi, perché, conciosa cosa che egli piuttosto avesse voluto perdere i denari e il pane, che perder l'olio per fare il figliuolo valente, perse l'uno e l'altro. Per il che, volendo il padre mitigare il suo grandissimo dolore, chiamò a sé il figliuolo, e aperto il scrigno dei suoi denari e gioie, gli consegnò la metà dei suoi beni, la qual ne vero non meritava, dicendogli: togli, figliuol mio, la tua parte della paterna eredità, e vanne lontano da me, perché voglio piuttosto rimaner senza figliuoli, che viver teco con infamia. Piuttosto che non sedetto, il figliuolo, tolti e denari, volentieri, ubbidendo al padre, si partì. Ed essendosi molto allontanato da lui, pervenne all'ingresso d'una selva, dove scorreva un gran fiume. Ivi edificò egli un bel palazzo di marmo, con maraviglioso artificio, con le porte di bronzo, facendogli andare il fiume attorno attorno. E fece alcune lagune con gli registri delle acque, quelli accrescendo e minuendo secondo che gli aggradiva, onde ne fece alcune dove entravano le acque tanto alte quanta è l'altezza di un uomo, altre che avevano l'acqua fino agli occhi, altre fino alla gola, altre fino alle mammelle, altre fino all'ombelico, che fino alle cosce, che fino alle ginocchia. E da cada una di queste lagune vi aveva fatto porre una catena di ferro, e sopra la porta di questo luogo vi fece fare il titolo che diceva «Luogo da sanare i pazzi». Ed essendo divulgata la fama di questo palazzo, per tutto si sapeva la condizione di quello, e pertanto convenivano i pazzi da ogni parte in gran numero per sanarsi. Anzi, per parlar più drittamente, vi piovevano. Il maestro, secondo la pazzia loro, li poneva in quelle lagune, e alcuni di quelli curava con busse, altri con vigilie e astinenzie, e altri per la sottigliezza e temperanza dell'aere, a poco riduceva al pristino loro intelletto. Innanzi alla porta e nella spaziosissima corte vi erano alcuni pazzi uomini da niente, i quali per la gran calidità del sole percossi erano grandemente afflitti. Avvenne che di lì passò un cacciatore che portava il sparviere in pugno, circondato da una gran moltitudine de cani, il quale, subito che vide questi pazzi, maravigliandosi che così cavalcasse con uccelli e cani, gli addimandò uno di loro che uccello fosse quello che egli portava in pugno, e se forse era una trappola, ovver calapio da uccelli, e a che effetto lo nodriva egli. Risposegli subito il cacciatore: questo è un uccello molto rapace, e chiamasi sparaviere, e questi sono cani che vanno cercando le quaglie, uccelli grassi e di buon sapore. Quest'uccello le prende, e io le mangio. Allora il pazzo dissegli: deh, dimmi, priegoti, per quanto prezzo hai tu comperato questi cani e sparaviere? Risposegli il cacciatore: per 10 ducati comprai il cavallo, per 8 lo sparaviere, e per 12 li cani, e in nodrirgli spendo ogni anno da 20 ducati. Deh, dimmi, per tua fe, disse il pazzo, quante sono le quaglie che prendi all'anno, e quanto vagliono? Rispose il cacciatore: io ne prendo più di 200, e vagliono per lo meno ducati 2. Alzando allora la voce il pazzo, ma certamente non pazzo in questa cosa, anzi dimostrava egli esser savio, fuggi, gridava, fuggi, pazzo che sei, che tu spendi 50 ducati all'anno per guadagnarne 2, oltre che non hai detto il tempo che vi consumi. Fuggi, per Dio, fuggi, che se il maestro ti trova quivi, mi dubito che ti porrai in una laguna, dove senza dubbio sommerso e quasi morto rimarrai. Imperocché io, che sono pazzo, giudico che sei più stolto di quelli che sono stoltissimi. Fine della storia. Molto fu commendata la favola del signor ambasciatore, la qual non fu favola, ma la stessa verità, perciò che il cacciatore sopravanza di pazzia tutti e pazzi. Quello, dico, che non avendo onde vivere, perde il tempo e li denari andando alla caccia. E acciò che il signor ambasciatore non fusse inferiore agli altri, in questa guisa il suo bel enimma propose: udito avete mai simil novella, un animal trovarsi in Oriente? Molto in onesto e ama la donzella, e nel suo grembo posa dolcemente. Non è leone, eppur leon s'appella, e in le sue braccia di morir consente. Egli è cornuto e già d'amor si pieno, che piangendo disfanta ogni veleno. L'onesto e leggiadro enimma del signor ambasciatore fu di non minor piacere che fosse la favola da lui raccontata, perciò che porgeva alle damigelle un non so che di dolcezza, e quantunque tutte l'intendessino, non però volsero dimostrarlo, ma prudentissimamente aspettorono che egli lo dichiarasse, il quale con allegro viso disse essere il leocorno, il quale, ancor che sia animal inonesto e intemperato, non di meno tanto la verginità gli piace, che, posto il capo in grembo della donzella, da cacciatori uccidersi lascia. Fine della prima favola della 13ª notte. Registrazione di Roberto Cofini.